Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccarone. Io me ne magno. L'avete riconosciuto, questo era Alberto Sordi in Un americano a Roma, il mitico film nel quale a un certo punto il piatto di pasta tradizionale avrà la meglio sulle mode alimentari che lo stesso Alberto Sordi vorrebbe seguire. Ma insomma, quei tempi di Alberto Sordi sono ben lontani ormai. E allora vi segnalo un libro di Marino Niola, Homo Dieteticus, Viaggio nelle tribù alimentari, pubblicato dal Mulino, 146 pagine, 13 euro. La tesi di questo libro è molto netta: la dieta e la forma fisica rappresentano la nuova religione del mondo contemporaneo, una religione globale che ci ha reso intolleranti verso quanto non risponde ai sacri crismi. Una religione, ci spiega l'autore, popolata da sette diverse. Infatti, dice Niola, la tesi di questo libro è che oggi la ricerca del modello nutrizionale virtuoso sia diventata la religione globale, con il maggior numero di proseliti, e che anche questa, come tutte le religioni nascenti, produca continue contrapposizioni, scismi, eresie, sette, abiure. Inoltre, ciascun credo alimentare si ritiene l'unica via per la salvezza. L'aspetto salutistico passa così in secondo piano rispetto a un fondamentalismo che finisce con l'orientare tutta la nostra vita. Ed è interessante il viaggio in queste tribù e i frequenti riferimenti anche a letture classiche che ci ricordano quanto l'approccio col cibo abbia costantemente condizionato l'umanità. E di questo adesso parliamo con l'autore. Buonasera Marino Niola. Buonasera a voi. Marino Niola, lei nel suo libro scrive che la dieta è diventata una sorta di religione globale che addirittura avrebbe il maggior numero di proseliti al mondo e Dio sarebbe il dietologo supremo, e a un certo punto parla anche di inquisizione dietetica. Insomma, che cosa sta succedendo nella nostra psiche? Perché lei parla anche proprio di psicopatologia della vita quotidiana. Sta succedendo questo, che il corpo, nella società dell'immagine, il corpo ha preso il posto dell'anima. E quindi tutte le discipline che una volta riguardavano l'anima, le discipline della temperanza, della moderazione, della privazione, dell'ascesi, ora si sono tutte spostate sul corpo e hanno il corpo per oggetto. Per cui le diete sono diventate gli esercizi spirituali di oggi, sono i nostri fioretti laici, sono le nostre pratiche ascetiche, e questo molto spesso finisce per tenerci tutti sempre a dieta in un modo o nell'altro. Non a caso che le diete si moltiplicano in una maniera esponenziale, esattamente come si moltiplicavano in certi secoli le sette reticali, perché ciascuna si ritiene l'unica via per la salvezza, e spesso è il risultato di far cortocircuitare la salute del corpo e la salvezza dell'anima. E quindi tutto questo poi è tipico di una società come la nostra, per cui il vero problema non è più la fame, parlo soprattutto della parte privilegiata del mondo, ma al contrario, il vero problema oggi è l'abbondanza, con tutto il carico di sensi di colpa che questo si porta dietro. E non è un caso che ci sia questa crescita esponenziale anche di fenomeni come allergie e intolleranze. E badiamo bene, non parlo delle intolleranze o delle allergie scientificamente accertate, ma di tutte quelle intolleranze molto spesso percepite come tali, ma che in realtà non lo sono. È come se oggi l'intolleranza alimentare, l'individuazione di un cibo come nemico, per esempio, avesse preso il posto dell'intolleranza religiosa. Quindi viene un quadro che sta a metà, appunto, fra corpo e anima, fra etica e dietetica. Questa però è una degenerazione, perché lei nel suo libro ricorda anche con tante citazioni di autori classici o i primi autori cristiani che le diete, i digiuni, anzi erano degli obblighi religiosi o comunque facilitavano la strada per il paradiso. Quindi c'è stata una deformazione rispetto a quell'approccio. Sì, c'è stata una deformazione che ha fatto uscire, diciamo, la religione dai suoi binari, l'ha fatta deragliare. Appunto gli asceti del primo cristianesimo, i padri del deserto, i monaci stiliti, no? Quelli che salivano su una colonna e passavano anni sulla colonna nutrendosi di pane, acqua ed erbe amare, come nel caso di Daniele o del famoso Simeone lo stilita, e lo facevano proprio, avevano in mente un obiettivo soprannaturale, che era la trascendenza del corpo, l'avvicinamento a Dio già in questa vita, mentre oggi ci autoinfliggiamo pene, privazioni, stenti e patimenti, molto sicuramente non per Dio, lo facciamo per l'io, E quindi le nostre sono diventate delle penitenze laiche il cui obiettivo è la bellezza. Allora diciamo quello che per gli uomini di religione, per gli uomini religiosi era una cosa da realizzare nell'altra vita, invece noi questo obiettivo, questa bellezza che è diventata la nostra forma di trascendenza, la nostra immortalità provvisoria, la realizziamo qui e ora. E il risultato appunto è che il nostro dietologo si trasforma in un dio. Questo fanatismo dietetico però non è spontaneo, lei ci dice, o almeno non lo è sempre, infatti lei parla di un fanatismo indotto anche dalle spinte biopolitiche messe in atto dalle grandi organizzazioni internazionali che governano la mente e il corpo del pianeta, parla del business del benessere, quindi insomma siamo vittime anche di un carrozzone esterno che ci spinge a questo integralismo. Sempre un carrozzone organizzato. Nel mio libro non c'è nessuna teoria del complotto. Quando io parlo dell'industria del White Watchers come di una multinazionale diffusa, intendo proprio questo. Poi ci sono sicuramente le spinte delle grandi agenzie internazionali, quelle che stabiliscono quali sono i parametri della salute o della bellezza, perfino l'indice di massa corporea, che molto spesso ha come effetto quello di far ritrovare obesa una parte del mondo che non rientra nei nostri parametri, perché non va dimenticato che i parametri di queste grandi organizzazioni sono stabilite su un tipo ideale che è quello dell'occidentale moderno, spesso anglosassone, e poi il resto lo facciamo noi stessi, perché queste cose non succedono senza la nostra partecipazione e senza la nostra complicità in un certo senso. E poi io aggiungerei un altro fattore che è la rete. La rete oggi rende virale e fa circolare a una velocità, alla velocità della luce, qualsiasi informazione di tipo dietetico, per cui improvvisamente qualunque voce, qualunque rumore, anche una voce infondata messa in giro in rete diventa una sorta di Vangelo. E questo forse dovrebbe farci riflettere su un altro aspetto che sta producendo proprio la viralità della rete, è che noi spesso viviamo una sindrome del complotto, non ci fidiamo della medicina ufficiale, siamo sempre pronti a dubitare che le industrie farmaceutiche ci vogliano avvelenare e così via, però poi siamo pronti a credere a qualunque santone, qualunque guru che in rete ci dice che la curcuma ci salverà la vita, quel tè verde ce l'allungherà. Probabilmente il rischio è di trasformarci in una democrazia della credulità. Infatti lei dice che diventeremo tutti, o siamo già diventati, dei creduloni ben informati e che rischiamo il nichilismo mentale. Cosa intende con questa espressione? Eh sì, nel momento in cui non esistono più criteri per valutare le informazioni, per distinguere una buona informazione fondata da una invece da una voce, da una bufala, si va verso una sorta di nichilismo mentale, in cui una specie di notte dell'informazione e di notte della ragione, in cui tutte le vacche sono nere. E poi c'è il salto dagli stiliti, di cui lei ci ha parlato, agli stilisti. Insomma, c'è una responsabilità anche della moda, dei modelli imposti dalla moda? Sì, c'è sicuramente una corresponsabilità della moda, perché io non direi che la moda sia l'unica colpevole, assolutamente. Però la moda non fa altro che proporre modelli di bellezza che sono spesso o irraggiungibili, con grande frustrazione da parte di chi, soprattutto ragazzine, non riesce a raggiungere questi standard, oppure modelli addirittura di malattia. Pensiamo a tutte quelle ragazzine smunte, anoressiche, che vediamo comparire sui giornali, sui magazine, proprio come ideali di bellezza. Si dice addirittura che molto spesso alcuni fotografi di moda o alcune aziende vadano a fare casting e scelgano ragazzine che hanno sofferto di anoressia. Se questo fosse vero sarebbe mostruoso, però è una voce che corre anche questa. E quindi molto spesso i personaggi della moda somigliano un po' agli stiliti, solo che gli stiliti, come dicevamo prima, realizzarono sul proprio corpo una sorta di transfer che li avvicinava a Dio. Gli stilisti invece lo fanno attraverso un corpo che non è loro, operano un transfer sul corpo delle loro creature, delle modelle, e quindi attraverso quello affermano il loro segno. L'ultimo passo del fanatismo diventa la guerra all'obesità, che secondo lei sta diventando una forma di autentico razzismo. Sì, di obesofobia, che come dicono alcune indagini abbastanza recenti del 2012, spesso tocca punte di fanatismo e di razzismo, per cui pare che molti, per la scelta delle risorse umane, molto spesso i lavoratori obesi sono discriminati, addirittura pare che a parità di competenze e dimensioni guadagnino meno dei normopeso. E quindi questo è uno dei tanti aspetti di una guerra al grasso, che in realtà è una guerra antica, perché tutte le società hanno in qualche modo sempre disapprovato la dismisura, solo che la dismisura non ha una taglia fissa. Se una volta per essere considerati obesi bisognava essere debordanti davvero, pesare 150-200 kg come i famosi grassoni dell'antichità, immaginiamo il Falstaff di Shakespeare per esempio, oggi invece basta un qualche chilo in più per essere considerato grasso, se non addirittura obeso. E quindi diciamo che c'è una condanna del grasso che probabilmente lo rende il vero nemico, lo rende diabolico in una società come la nostra, che è fatta di leggerezza, di efficienza, di velocità, di bellezza. Su queste tendenze, che cosa ci dicono i dati sui consumi alimentari degli italiani, ai quali pure lei accenna nel suo libro? Beh, i dati sui consumi alimentari ci dicono che nel paese e in generale in Europa ci sono due tendenze contraddittorie. Da una parte, in certe zone c'è un aumento dell'obesità, che è un aumento che segue una linea proprio di demarcazione sociale. Di fatto gli obesi si trovano nelle aree meno privilegiate della società, nei ceti meno alfabetizzati, oltre che meno e con minor potere d'acquisto, mentre la buona educazione alimentare, come al solito, è la salvezza, ma è una salvezza soprattutto per chi può consentirsela. E d'altra parte c'è anche però un dato confortante, che la spesa alimentare casomai si riduce sul piano della quantità, però sceglie sempre di più la qualità. Bene, grazie a Marino Niola, autore di Homo Dieteticus. Buona serata. Buona serata a voi. E un romanzo sull'intransigenza alimentare non solo è quello di Paola Maraone e Paola La Rosa, Straziami ma di tofu saziami, è pubblicato da Rizzoli, 338 pagine, 17 euro. Protagonista della storia, che è ispirata a una vicenda autentica, è una coppia il cui lui, personaggio peraltro affascinante, è un vegano intransigente che ha adattato all'intera esistenza il suo stile di vita, quindi niente auto naturalmente, niente detersivi, niente abiti se non sono stati cuciti da sé. Insomma, Francesco, appunto il protagonista maschile del romanzo, cammina sul crinale, scrivono le autrici, che separa il guru dal paranoico, a metà strada tra un veg giovanotti e un Barack Obama dei noantri. Dicevo che questa è tratta da una storia vera, perché una delle autrici, Paolo La Rosa, si definisce vegana disintossicata, che oggi non ha pregiudizi alimentari, e sentiamo come matura la crisi di Alice, appunto la protagonista che abbandonerà il veganismo. Alice, credo di aver trovato la soluzione a gran parte dei mali del mondo. Ma dai. Sì, e come al solito era lì, a portata di mano. Sentiamo. Dobbiamo digiunare un giorno alla settimana. Se lo facessimo tutti, ci sarebbero molte più risorse disponibili per le persone che, oggi come oggi, non hanno niente da mangiare. Guarda che l'equilibrio mondiale non funziona così. Il piatto di spaghetti a cui rinuncio io non finisce automaticamente sulla tavola di un bambino africano. È una faccenda molto più complessa. Ma sarebbe già qualcosa, un messaggio forte da mandare alla società. Ci siamo, pensai. Francesco è uscito di testa. Ero seriamente preoccupata. Francesco, ti rendi conto che quello che dici non ha senso? Invece no, digiunare e anche salutare. L'hai letto su uno dei tuoi siti alternativi? Non è vero, saltare i pasti fa malissimo, lo dicono tutti i dietologi. Ma qui non c'entra la dieta, qui stiamo parlando di una purificazione del corpo che fa aumentare l'energia spirituale. E da quando ti interessi di spiritualità? Da quando ho letto un bell'articolo su questo santone indiano. E chi sarebbe questo santone? Si chiama Prahlad Jani. Non mangia né beve da 70 anni e sta benissimo. Vive di prana, cioè di respiro. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, siamo alla vigilia di uno dei più importanti appuntamenti per il mondo del libro che si svolge ogni anno, e cioè la Fiera del Libro per Ragazzi, appuntamento storico di Bologna. E quest'anno la fiera apre il 30 marzo, si svolgerà fino al 2 aprile, sempre nel quartiere fieristico. È l'appuntamento internazionale forse più importante al mondo per l'editoria per ragazzi. Ricordo che è una fiera riservata agli operatori, ma che dà il via a molte iniziative collaterali, in particolare il weekend dei giovani lettori. E allora a questo punto il confettino. Parliamo di alcune novità che saranno presentate proprio a Bologna. Orecchio Acerbo presenta La Pantera sotto il letto di Marco Baiani e le illustrazioni di Mara Cerri, 44 pagine, 16 euro. Questa è una sorprendente storia notturna a cavallo tra realtà e sogno. Poi sempre Orecchio Acerbo presenta un libro molto bello di Dino Buzzati, La Creazione, le illustrazioni sono di Gerda Martens. In questo libro l'universo è il frutto di una progettazione vera e propria che avviene in un grande studio di architettura. Giunti presenterà alcuni nuovi marchi che sono stati acquisiti in questi ultimi mesi e poi presenterà alcune novità, per esempio Bisabia Bisabel, che è di una scrittrice brasiliana di straordinario successo. Questo libro ha venduto 22 milioni di copie soltanto in Brasile, 96 pagine, 10 euro, con l'illustrazione di Desideria Guicciardini e la traduzione di Daniele Petruccioli. La scrittrice di questo libro sarà a Bologna lunedì e mercoledì e presenterà questo libro dal forte significato civile, perché è ambientato nel Brasile della dittatura militare, quella dittatura che aveva costretto nel 1969 la stessa scrittrice a andarsene in esilio. Poi un'altra collana di Giunti è quella di Anna Sarfatti, che presenta martedì questi libri pensati per far conoscere la Costituzione ai bambini dai 7 anni in su. Il primo volume si intitola La Costituzione nello zainetto. Sono usciti due volumi di 48 pagine e 5,90 euro, in cui con poesie e filastrocche si illustrano appunto i principi della carta fondamentale del nostro paese. Poi c'è un libro di Francesco D'Adamo che viene presentato proprio lunedì, che è una sorta di sequel del bestseller dello stesso D'Adamo intitolato Storia di Iqbal. E questo libro viene presentato in occasione del 20° anniversario della morte di Iqbal Mashi, appunto il ragazzo 14enne pakistano che aveva denunciato la mafia dei tappeti e al quale D'Adamo aveva dedicato un libro molto fortunato che si intitolava appunto La Storia di Iqbal. Questo nuovo titolo è Dalla parte sbagliata, La speranza dopo Iqbal, 208 pagine, 12 euro. E la prima puntata del libro, dedicato appunto alla storia di Iqbal, di Francesco D'Amato, come dicevo, è riproposta da Einaudi, in questa occasione 142 pagine, 11 euro. Einaudi, ragazzi, punta soprattutto sulla storia e lancia per esempio una collana per i giovanissimi che si intitola I grandissimi. Escono Giulio Cesare, Conquistatore del mondo, di Guido Sgardoli, con le illustrazioni di Fabiano Fiorin, 78 pagine, poi Anne Frank, La voce della memoria di Elisa Puricelli Guerra, 80 pagine, illustrato da Amalia Mora, entrambi costano 7,50 euro. Nella stessa collana troveremo poi Leonardo da Vinci, Nefertiti, San Francesco e Cristoforo Colombo. Poi, sempre in Audi Ragazzi, pubblico un'antologia di racconti sul cibo, Dalla terra alla tavola, 20 storie di cibo, di Grazia Gotti e Silvana Sole, illustrato da tanti illustratori che fanno capo all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino. Questo libro costa 16 euro, 160 pagine. Questa puntata, dedicata in particolare ai libri per ragazzi, è anche un'occasione per ricordare uno dei più grandi successi di libri per l'infanzia, e non soltanto, che ha conquistato tutti i lettori in tutto il mondo, cioè Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Il 31 dicembre dell'anno scorso sono scaduti i diritti esclusivi per il capolavoro e dunque quest'opera adesso è, come si dice, di pubblico dominio. Chiunque la può ripubblicare, affiancandosi alla edizione classica in Italia di Bompiani. E infatti sono uscite due nuove edizioni che adesso vi segnalo. La prima è quella di Mondadori, curato da Leopoldo Carra, 152 pagine, 12 euro, dove troviamo coi disegni dell'autore vari documenti e uno scritto, Lettera a un ostaggio, che era uscito nel 1943 negli Stati Uniti per essere pubblicato in Francia solo dopo la liberazione. Una lettera nella quale l'autore riprende alcuni temi sull'amicizia e sul rispetto personale che dominano anche il suo capolavoro. E vi propongo da questa lettera alcune righe. Questa qualità della gioia non è forse il frutto più prezioso della civiltà che è la nostra? Potremmo essere soddisfatti nei bisogni materiali anche da una tirannia totalitaria, ma non siamo bestiame da ingrasso. La prosperità e gli agi da soli non riuscirebbero ad appagarci. Per noi che siamo stati educati nel culto del rispetto dell'uomo, hanno un gran peso quei semplici incontri che si trasformano a volte in meravigliose feste. Rispetto dell'uomo, rispetto dell'uomo. È questa la pietra di paragone. Se il nazista rispetta unicamente chi gli assomiglia, non rispetta altro che se stesso. Rifiuta le contraddizioni creatrici, distrugge qualunque speranza di elevazione e fonda per mille anni, al posto di un uomo, il robot di un termitaio. L'ordine per l'ordine mutila l'uomo del suo potere essenziale, che è quello di trasformare sia il mondo sia se stesso. La vita crea l'ordine, ma l'ordine non crea la vita. A noi invece sembra che la nostra elevazione non sia ancora compiuta, che la verità di domani si nutra dell'errore di ieri e che le contraddizioni da superare siano il terreno stesso che nutre la nostra crescita. Ci sentiamo accomunati anche con quelli che sono diversi da noi. Una strana parentela, però, fondata sul futuro, non sul passato, sulla meta, non sull'origine. Siamo l'uno per l'altro dei pellegrini che camminano faticosamente lungo strade diverse, verso lo stesso luogo di incontro. Ma ecco che oggi il rispetto dell'uomo, presupposto necessario per la nostra elevazione, è in pericolo. Gli scricchiolii del mondo moderno ci hanno fatto entrare nelle tenebre. L'altra edizione, sempre con l'illustrazione originale, è quella pubblicata da Ancora ed è curata da Enzo Romeo. Il Piccolo Principe commentato con la Bibbia, 192 pagine, 17 euro. Qui troviamo il testo dell'opera e una postfazione che definisce questo libro il nuovissimo testamento di Saint-Exupéry, perché secondo il curatore questo libro offre molti spunti tratti dalla letteratura religiosa e addirittura dall'esegesi biblica. Ispirazione che si esprime principalmente, spiega il curatore, nell'anelito al trascendente, all'assoluto che domina la sua opera. E concludo con un riferimento all'attualità purtroppo drammatica, cioè la persecuzione alla quale sono sottoposti i cristiani in molte zone del mondo. Abbiamo letto, continuiamo a leggere, di uccisioni, di distruzioni di chiese, di furie integraliste, iconoclaste dell'Islam e non soltanto contro la religione cristiana e cattolica. E allora vi propongo il libro nero della condizione dei cristiani nel mondo, che è curato da un vescovo francese, Jean-Michel Di Falco, da un domenicano inglese, Timothy Radcliffe, e da un noto intellettuale italiano, Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità di Sant'Egidio, coordinati da Samuel Liven. Il libro è pubblicato da Mondadori, 604 pagine, 20 euro, ed è un'opera che vede il contributo di tantissimi autori, non soltanto cattolici o cristiani. Per esempio c'è il rettore della moschea di Bordeaux che invoca la presenza cristiana in Medio Oriente come una garanzia di pace, o troviamo qui l'appello di Parigi firmato nel novembre del 2014 da molti intellettuali musulmani che giudicavano la violenza come intollerabile e incompatibile con l'Islam, queste le loro parole. Ma il dramma purtroppo delle persecuzioni continua ed è qui amaramente descritto nelle varie aree dove l'integralismo dell'Islam si è scatenato, ma dicevo prima non c'è soltanto l'Islam, perché nel libro si parla anche della Corea, della Cina, dei paesi asiatici, di Cuba, la cui apertura viene giudicata illusoria. Insomma, il libro, conclude il domenicano, dimostra che esiste davvero una guerra globale contro i cristiani e Radcliffe ricorda che i cristiani patiscono discriminazioni e persino persecuzioni in 139 nazioni, secondo il Pew Forum on Religion and Public Life, che è un'associazione, un centro studi americano. Conclude il domenicano: molti cristiani muoiono perché si è diffuso l'odio verso la nostra fede, spesso da parte di devoti credenti di altre religioni che noi rispettiamo e alle quali siamo uniti nella venerazione per un unico Dio. Come possiamo fermare questo terribile massacro? Egli risponde con parole di speranza che concludono questo libro. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione e Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona serata.